Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Il santo di oggi, sai, oggi che è Santa Elisabetta. Vabbè. Che devo dirci? La guerra ci aspetta. Perché... No. A sentire Olanda, sono siamo già in guerra. Siamo già in guerra, Olanda dice. E anzi dice, seguitemi in questa guerra. Questo è il punto. Seguirlo? Non lo so, il vice direttore di Famiglia Cristiana dice seguiamo i russi, anche questo mi lascia senza parole. Sì, ma quell'articolo però di Famiglia Cristiana di Fulvio Scaglione, sai che ieri ha avuto nella rete una serie di condivisioni incredibili, cioè il senso dell'articolo che ha scritto Fulvio Scaglione è a dire tutti esperti, no, adesso di antiterrorismo, tutti che hanno la soluzione facile, in realtà la realtà non è mai così bianco unilaterale, nero, no? Unilaterale. Però dice effettivamente è sbagliato andare con la Francia. È la domanda che si pongono tutti. Il secolo XIX oggi la pone così. In guerra con la Francia? Col punto di domanda. Che facciamo? Perché qui... Sì, ho capito, però che vice direttore di Famiglia Cristiana lanci la grande alleanza con la Chiesa Ortodossa in nome del fatto che Putin ha ragione. Dai, è una cosa... No, perché non è che Putin non è guerrafondaio. Quello gli stivali sul campo ce l'ha già e bombarda più di tutti ogni giorno. Però Putin ieri, secondo me, ha fatto una cosa interessante. Al G20 si è seduto lì e ha detto, in pratica, qui ci sono dei Giuda, o meglio, tra i paesi, tipo, pensava al Qatar, all'Arabia Saudita, al Kuwait, quei paesi che... questi paesi finanziano l'ISIS, allora guardiamoci negli occhi a dire, ci stiamo prendendo in giro? Pensa anche un po' alla Turchia che ospitava. La cosa Turchia, che, anche ovviamente. La Turchia. Ma è vero, cioè, quando, sottinteso, individui di 40 nazioni finanziano ISIS, ha perfettamente ragione. Del resto molti di quei paesi finanziano al-Nusra, finanziano le altre parti delle altre milizie del fondamentalismo sunnita contro l'Iran e Hezbollah. E del resto la Russia è presente con la propria strategia imperiale, cioè dire voi comunque alla frontiera del Caucaso non ci arrivate vivi. Tutta gente che ha delle partite proprie. Mi chiedo noi lì che partita abbiamo. Infatti, perché la domanda comunque rimane sullo sfondo. Giriamo anche agli ascoltatori. 800 24 00 24. Seguire la Francia che dice c'è una guerra, leggi speciali qui in Francia e Europa, seguiteci. Con Obama che dice andate. Perché? E anche Renzi, perché oggi in retroscena sui giornali raccontano di un Renzi che quasi nel, sa che lui segue anche molto lo storytelling, la narrazione, anche la parola guerra. Non siamo in guerra, è sbagliato, dice Gentiloni. Esatto. Anzi, ci informa la portavoce ufficiale sul Corriere della Sera del partito renziano Unito nel Mondo, cioè Maria Teresa Meli, la ministra della difesa Pinotti è un po' scomunicata perché parla con un tono troppo bellicista. Sarebbe stata ripresa da Renzi perché è considerata troppo vicina ai generali e quindi dovrebbe più prudenza. Non andiamo in guerra. L'hai già citata guerra 3 volte, io l'ho fatto non già 10 volte, siamo già no, fuori però, linea. Fuori linea. L'Italia, come sempre, è un po' ridicola, però. È un po' tentennante. Ma tentennante a spiegare apertamente. Guardate, noi abbiamo un problema che si chiama Libia. Sì. Che fa anche parte del nostro retaggio storico, per così dire. Mentre la Siria se la deve vedere qualcun altro, perché il pasticcio siriano è figlio di pasticci fatti da altri. Io questa la considero una spiegazione coerente agli interessi nazionali. Quello che mi colpisce un po', mi disturba sempre della posizione italiana, invece, è voler fare sempre quelli che sono con tutti, sono con nessuno, ma non chiariscono così. Mai. È così, noi siamo sempre stati storicamente così, no? un po' di tentenne, e quindi anche in questo caso è così. Io voglio ricordare il numero per i vostri anche messaggi WhatsApp, è 349-238-6666. Tra l'altro, Oscar, parleremo con Franco Roberti, che è il capo della Procura Antiterrorismo e Antimafia, per capire se questo inciderà qualcosa nelle nostre vite, no? Quello che è successo. Altro refrain: dobbiamo essere tutti pronti a rinunciare. Benissimo, però vogliamo stabilire alle nostre libertà. A che cosa, di preciso? Perché se io leggo oggi su Repubblica Vladimiro Zagrebelsky, che di solito è una dei costituzionalisti più critici, no, di qualunque intervento di modifica in senso efficientista, diciamo così, che mi viene a dire: beh, del resto sulla libertà di comunicazione, ragazzi, mica possiamo consentire solo ai terroristi la libertà. Beh, vabbè, ho capito. Allora però spiegatemi bene a che cosa rinunciamo. A cosa possiamo rinunciare? Lo chiederemo a Roberti, perché Roberti lo ha detto: dobbiamo essere disposti a rinunciare a un po' delle nostre libertà in nome della lotta al terrorismo. In Francia Hollande ha proposto un'estensione con riforma costituzionale dei poteri di eccezione, sulla quale, insomma, io sono il primo che mi gratto la testa. D'altronde Hollande dice: siamo in guerra, e in guerra ci vogliono leggi speciali e ci vogliono risposte. Secondo me ci vogliono strategie e obiettivi speciali prima che leggi speciali. Sbaglierò io, ma l'esperienza che abbiamo alle spalle, che gli amici del Foglio evidentemente non affrontano, perché leggo sugli amici del Foglio gli stessi articoli con il tono del post 2001. Andiamo, combattiamo. Perfetto. Peccato che nel dopo 2001 sono stati commessi errori gravissimi. Cioè, tutto lo stato maggiore del Daesh sono tutti alti ufficiali di Saddam. Se non ci fossero stati gli errori americani e occidentali sulla debatificazione totale dell'Iraq, non ci sarebbe Daesh. Spieghiamo, perché alcuni ieri ci hanno scritto: cos'è il Daesh? È l'ISIS, insomma, è lo stato islamico, sì, è un altro modo per definire l'ISIS. Allora, però, Oscar, questa notizia di Parigi ovviamente ha un po' cancellato per alcuni giorni, sospeso tutte quelle che sono le altre notizie. C'è un grande beneficato, De Luca. Ah, eccolo lì. Così. Ma è la battaglia personale di Oscar. No, nei confronti di Vincenzo De Luca. Vincenzo De Luca, ti faccio sentire cosa ha detto 2 o 3 giorni fa. Sentiamolo bene. Dovreste vederlo all'Ira TV quando fa queste interviste. Ma l'Ira è con l'apostrofo? L'Ira TV, una TV credo di Salerno. Ah, quella che gli suonano di fronte a lui che fa Nerone. Ho capito. Credo sia una TV di Salerno. Finiscila. Dove lui fa delle interviste settimanali. Delle domande salacissime. Sentite De Luca. Al di là dei fatti, tenga conto che io non so niente, di niente, di niente. Devo dire che trovo una dimensione di vita quasi da monaco buddista. Raggiungo il nirvana, la pace dell'anima. Mi sento sereno, evidentemente, come un monaco buddista. A me fa ridere, meno, perché come al solito c'è questo scolpire la dizione con la mascella quadrata. Ma dai, è una specie di, voglio dire, cosa mi evoca, però a me evoca l'hai questo. Già detto peraltro che ha opinio autoritario, lo ripeto, ma basta vedere come si approccia alla comunicazione. Io non vedo l'ora di averlo qui, presidente De Luca, venga qui, si sottoponga alle nostre domande. Mi tratterà come uno, se gli parlo, che uno dei soliti pezzenti che sa fare domande. Lui li vuole tutti come quelli della Lira, porgono il microfono e lo fanno parlare. Gli amici di Lira TV, li salutiamo. Ieri però è successo un gran casino, perché c'era il consiglio regionale. Dare fuoco? C'era il consiglio regionale ed è andata come lui non avrebbe mai sperato. Esatto, pensa, perché il Movimento 5 Stelle, sentiamo la Ciarambino, capogruppo che il Movimento 5 Stelle alla Regione Campania, hanno un po' occupato, hanno fatto un po' di bagarre. Facciamo un gesto forte, ne siamo consapevoli, occupiamo questo consiglio, ma lo facciamo nell'interesse dei cittadini campani e della legalità, perché questo consiglio vuole far finta di niente rispetto ad una vicenda gravissima. L'occupazione avrebbe portato. E lì è finito un po', cioè guarda che malore del presidente del consiglio comunale, regionale, insomma è finita un po'. E quindi De Luca non ha spiegato nulla e ha fatto una dichiarazione dicendo che è l'ultima volta. Non succederà più. Questo l'ultima volta è l'ultima volta che si consente alle opposizioni di protestare, o è l'ultima volta, cioè d'ora in poi dirà ancora meno? Non lo so, questo lo vedremo solo nei prossimi giorni. Tanto lui è sereno come un monaco buddista, raggiunge il nirvana. Oggi in teoria il governo Renzi dovrebbe aspettare anche l'ok sulla sua manovra da Bruxelles. Credo che in realtà ce la faranno aspettare fino a marzo-aprile. Resterà un po' appeso, non credo che a Renzi questo piaccia. Si è dato da fare, dicono, per evitarlo. Non arriverà succederà oggi il voto? I tedeschi hanno chiesto ufficialmente alla Commissione, ufficialmente, riservatamente, ma insomma lo sappiamo, perché per chi si occupa della faccenda, di tenere appeso il governo italiano fino a marzo prossimo. Ma che vuol dire tenere appeso? Cioè un modo, cosa significa tenere appeso? Ti tengo appeso perché? Perché le richieste aggiuntive che noi abbiamo fatto, il deficit aggiuntivo, ci sono tutte, e su queste basta dare un giudizio dicendo è molto sul filo quello che ci proponete, oltretutto a questo punto meglio aspettare la versione finale di col voto del Parlamento, sì, sì, che arriva in genere dicembre, sotto Natale, poco prima di Natale, esatto, e quindi alla fine si fa marzo. Per Renzi questa sarebbe una seccaturina, ma una seccaturina con l'Europa. C'è una seccaturina anche per te, caro Oscar, sulla questione del Movimento 5 Stelle, devo dirtelo, perché certo, perché è arrivato il nuovo sindaco del comune di Sedriano, primo comune sciolto per mafia in Lombardia, si è andate a votare, e il sindaco del Movimento 5 Stelle è un maresciallo della Guardia di Finanza. Ma io sono mica favorevole al fatto che esercitino tutti i loro diritti. Ma certo, questo tuo tentativo di farmi mettere contro gli apparati tributari perché ti vuoi liberare di me non avverrà. Invece ti faccio notare, viva il nuovo sindaco di Sedriano e tanti auguri. E viva la Guardia di Finanza. Viva la Guardia di Finanza, ci mancherebbe. Tagliatela questa. No, io sono contro i dirigenti illegittimi di agenzie delle entrate, sì, e a questo proposito esce fuori un altro di questi fiorellini, un funzionario dell'agenzia delle entrate di Como, che aveva la bella abitudine di spiare attori, manager eccetera eccetera, di Como, 124 persone, Laura Pisini, Pausini, Della Valle, quindi così via. Sapremo tutti i segreti poi perché naturalmente persone. L'infedele funzionario di agenzia delle entrate ha diritto alla tutela del nome, non possiamo anche sapere neanche il nome. Sapremo tutto di Laura Pausini, Della Valle. Questi sono quelli che difendi tu, vedi? No, ma che difendi tu? No, io non difendo una persona che compie un reato del genere. Poi mi dicono rinunciamo a tutto. Ma abbiamo già rinunciato a tutto. Questi vanno qui per vendere ai giornali le loro cose, i funzionari dell'agenzia delle entrate. Fortunatamente è stato pescato e verrà perseguito per questo tipo di reato. No, ci mancherebbe. Comunque 800 24 00 24 è il numero per le vostre chiamate. Oscar, di altre notizie, insomma, ce ne sono tante. Mi ha colpito molto il fatto che ci siano le imprese che non vengono pagate dall'Expo. Pensate che gli Stati Uniti devono dare 20 milioni di arretrato di pagamento. Cioè, ci sono aziende, la Russia che deve pagare, ci sono aziende come al solito che vengono pagate in ritardo, ma in questo caso dai paesi che hanno organizzato i padiglioni, l'Expo, ma come? Che dovrebbe essere l'esemplarità della puntualità dei pagamenti, la grande vetrina dell'efficienza italiana. E invece, come sempre, scopriamo che siamo in Italia. Succede anche. È un po' come i pagamenti della pubblica amministrazione in Italia, dichiarati risolti per legge, che continuano a crescere in realtà. Questo Però insomma, questa cosa mi ha un po'. Ieri ancora non si poteva parlare d'altro, però la notizia del ritiro pare dei raccoglitori automatici degli abiti a Roma, perché naturalmente abbiamo scoperto che 5.000 tonnellate di abiti dismesse ogni anno andavano a Buzzi e Carminati, è un'altra di quelle perle. Comunque, vogliamo sentire Fabrizio da Roma, che ci ha chiamato all'800 24 0024. Fabrizio, eccoci qua, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, buongiorno. Dica. Io volevo soltanto esprimere questo concetto. In questi giorni, ecco, appunto, come dicevate voi, sono tutti diventati esperti di terrorismo internazionale, ognuno ha la ricetta per la soluzione, ma io credo che questa contrapposizione tra il mondo islamico, il mondo occidentale, eccetera, che si sta tentando di portare avanti, non porti a nessun risultato, insomma. Se voi immaginate che l'ISIS si finanzia attraverso la vendita del petrolio, guadagnando circa dai 3 ai 5 milioni di dollari al giorno, è evidente che c'è un rapporto molto stretto, no? Quindi io non credo che la guerra, adesso non è un discorso pacifista o insomma però non credo che la guerra possa in qualche modo risolvere questo tema, che secondo me, cioè, non è un intervento militare quello da fare, bisognerebbe magari fare quell'intervento. Se lei appunto pensa che comunque il finanziamento armi, eccetera, viene attraverso la vendita del petrolio, qualcuno questo petrolio lo comprerà, no? Ma come no? Oggi, guardi, io segnalo Roberto Bongiorni sul Sole 24 Ore, fa un straordinario reportage, un'inchiesta sulle cassaforte del terrore, come attraverso il greggio illegale e le donazioni spesso private di arabi, nel senso di arabi sauditi, di catarioti, di kuwaitiani. Sì, non stiamo parlando di poveretti che ci credono, stiamo parlando di grandi gruppi imprenditoriali di quei paesi. Esatto, bisognerebbe fermare quello, lei dice, più che fare un intervento. Comunque si possono fare sugli impianti di estrazione che non sono in mezzo alle città, come sui convogli che portano il petrolio, sono stati colpiti duramente in questi giorni per la prima volta, si possono fare azioni mirate che sono diverse dall'idea di andare con i contingenti. Ma infatti l'America ha colpito proprio questo impianto di Omar, dove loro prendono. Conto sono azioni mirate. L'America ha già detto: noi faremo solo azioni mirate, quindi sul campo resteranno solo i russi, gli iraniani. Gli americani con queste azioni mirate. Sul campo, certo. Però, sono sempre bombardamenti. Dal punto di vista dell'ISIS sono sempre attacchi. Oscar, ci chiedono: ma è possibile un dipendente statale che diventa sindaco in un enorme conflitto di interessi? Poi un finanziere, questo il sindaco di Sendriano. Prende l'aspettativa. Sì, certo, è possibilissimo. È chiaro che dice anche una cosa evocativa. No? Cioè, vincono i 5 Stelle perché quello che è successo, e i 5 Stelle stesse si affidano per primi a un finanziere. Abbiamo visto in questi giorni che c'è una prima moglie di Grillo che si affaccia a Rimini. Ah, c'è anche la prima moglie di Grillo, sì, che forse si candida a Rimini. Non so, staremo a vedere anche questa. È il momento di dare i nostri Oscar, li diamo i nostri Oscar? Certamente. Ecco qui. And the Oscar goes to... Io voglio dare il mio Oscar e minchino anche alla signora che io ho conosciuto vari anni fa, Romana Blasotti Pavesi. Questa signora ha 86 anni, per 30 anni è stata presidente dell'associazione familiari vittime dell'amianto, dell'Eternit. Lei ha perso tantissimi familiari. La vicenda dell'Eternit, ha 86 anni, dice: sono stanca, e lascia la presidenza. Minchino nel dare il mio Oscar alla signora Romana Blasotti Pavesi. Io do il mio Oscar a una vicenda che è scomparsa dall'attenzione pubblica, e la mia domanda è: chi è che ha coltellato a Milano Nathan Graff? Perché chi l'ha coltellato? È successo poche ore prima in Italia. Allora, l'Oscar lo vorrei dare a chi fa indagini e a chi se ne occupa anche giornalisticamente, mettendo un po' di pressione su questa vicenda, perché non vorrei che noi ci siamo tutti parigini, e però per un ebreo ortodosso accoltellato a Milano è sparita questa vicenda. Totalmente soverchiata dalla notizia che veniva da Parigi. Dopo la pubblicità, qualche minuto state con noi, avremo il procuratore capo antiterrorismo e antimafia Franco Roberti ai nostri microfoni. E noi ci andiamo al pellegrinaggio a Medjugorje. Siamo sposati, è fantastica. Non ci possiamo andare. No, dobbiamo dirla allora. C'è il Corriere della Sera che fa una pagina per il viaggio a Medjugorje per soli single, per pregare la Vergine Maria. In cambio di una moglie 240 euro. Per avere una famiglia. C'è scritto così lì. Cioè, c'è una pagina, è organizzato dall'esercito di Maria. 240 Io euro. Io credevo fosse Maria Elena Boschi che avesse... Astenersi sposati o divorziati, single. C'è scritto. 240 euro. 240 euro e metti famiglia, forse. Ma non erano i musulmani che permettevano le mogli per chi è? Adesso ci vuole l'intercessione giusta, però. 240 euro. Noi non possiamo andare. Siamo già esercito accasati. Di Maria, non mi avrai. Ecco. Non mi avrai. Tutto porta via, anche la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Eccoci qui, caro Oscar, alle 8:40 minuti. Eccoci qui pronti per Medjugorje. No, allora, no, non andiamo a Medjugorje. Allora, ma siamo pronti per salutare il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, che è con noi ai nostri microfoni. Grazie, procuratore, buongiorno. Buongiorno, ma non la sento bene però, la sento molto lontano. Miglioriamo ora l'audio. Le chiediamo questo: la Francia punta a leggi speciali, servono anche in Italia? Credo assolutamente di no. Non servono leggi speciali. Le leggi che ci sono sono assolutamente adeguate, bisogna naturalmente applicarle e farle funzionare bene. E questo discorso credo che valga anche per la Francia, è un problema di organizzazione, non di legislazione. Per adesso, guardi, noi abbiamo vinto il terrorismo interno senza ricorrere a leggi speciali, con la sola forza del diritto penale ordinario con l'applicazione rigorosa delle garanzie costituzionali. Sì, però, procuratore, se ricorda, anche noi le abbiamo fatte le nostre leggi, dalla legge reale in poi, cioè, voglio dire, poi siamo ritornati... La legge reale non era una legge speciale. Sì, però dava un giro di vite particolare... Assolutamente sì. Ecco, questo anche la legge che è stata approvata... decreto legge antiterrorismo del febbraio scorso dopo i fatti di Parigi è una legge non speciale, ma è una legge assolutamente rigorosa. Ma se invece entriamo nell'identificazione di alcuni ambiti della libertà individuale e personale, ci sono molti commenti oggi che dicono, per esempio, la libertà di comunicazione, perché lasciare la libertà di comunicazione sui mezzi tecnologici solo ai terroristi? Dobbiamo rassegnarci comunque ad alcuni ambiti di libertà personale che vengano... Guardi, il punto è già stato discusso anche in occasione della conversione in legge del decreto antiterrorismo di febbraio scorso. Si tratta di trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza, di salvaguardia della vita dei cittadini e quelle importanti, importantissime della tutela della privacy dei cittadini. Allora si discusse in questi termini a proposito della proposta di inserimento delle intercettazioni da remoto, delle conversazioni, delle comunicazioni telematiche e informatiche. Fu proposto dal governo un emendamento alla legge di conversione e fu poi ritirato perché ci fu una levata di scudi al grido di non si deve frugare nei computer dei cittadini. Ecco, ora non si tratta di frugare nei computer dei cittadini, si tratta appunto di trovare un equilibrio tra sicurezza e privacy. E io credo che questo tema delle intercettazioni, il controllo delle comunicazioni informatiche e telematiche sia un tema che dovrà tornare all'attenzione del Parlamento. Però, procuratore, ci faccia un esempio, perché lei lo ha detto, dobbiamo essere pronti a cedere parte delle nostre libertà. Ci faccio un esempio. Mi riferivo proprio a questo, parlavo delle libertà di comunicazione. Non a cedere parte delle libertà, a vedere una certa compressione questi diritti di comunicazione in nome della sicurezza. Quindi in nome della sicurezza che cosa si può prevedere? La possibilità di ascoltare? Si può prevedere la possibilità di fare intercettazioni da remoto di comunicazioni informatiche e telematiche. Come del resto, ripeto, il governo voleva... Quindi controllare i computer. Per controllare l'accesso ai siti delle persone sospette, le pare poco? No, chiaro. Ma questo vorrebbe dire delle persone sospette o di tutti gli italiani? Delle persone sospette, ovviamente. Delle persone sospette. Cioè sempre con un filtro per cui c'è una richiesta all'interno di un'indagine autorizzato, non controlli a tappeti a strascico. Su questo non c'è dubbio. Sempre con il filtro autorizzatorio dell'autorità giudiziaria. Questo sì, cioè non controlli a tappeto. Beh, questa è una importante precisazione. Assolutamente no, ma perciò bisogna prevederlo per legge. Forse è il caso di farlo già in sede di conversione del decreto antiterrorismo. Vabbè, comunque è una richiesta precisa di un'iniziativa. Procuratore, sul giubileo possiamo stare tranquilli. È chiaro che il suo ruolo è di tranquillizzare. Ma si è mai pensato di sospendere o di chiedere di sospenderlo? Guardi, la tentazione di chiedere la sospensione del giubileo è circolata. Ma io credo che sarebbe uno sbaglio. Sarebbe un cedimento ai terroristi, proprio al terrore che essi vogliono seminare. Ma circolate in che ambienti? Stiamo attrezzando per affrontare anche questa prova del giubileo, come è stata affrontata e brillantemente superata quella dell'Expo di Milano. Cioè, circolata vuol dire che se ne è parlato della possibilità di chiedere. Ma l'ho visto anche su alcuni giornali, qualcuno ha proposto. No, ma al di là di politici osservatori, sì, nella comunità dell'intelligence dei magistrati. No, per quanto mi risulta, no. Questo assolutamente no. Senta, ma la cooperazione tra procure come la sua a livello europeo, domanda, perché se uno vede molti di questi che poi sono identificati come autori degli atti come quelli di Parigi, sono incappati in maglia, in controllo eccetera, però spesso a Bari sfuggono. È successo, oggi Repubblica ecco, esattamente. Bari, allora, c'è la cooperazione tecnica tra voi cooperazione internazionale c'è e ha funzionato. Per esempio nella operazione degli che ha portato agli arresti dei curdi iracheni che facevano capo al Mullah Tregar, detenuto in Norvegia. Quella è una formazione terroristica che aveva degli obiettivi terroristici, non italiani, tanto per intenderci, per chiarire, ma aveva indubbiamente obiettivi terroristici. E beh, lì ha funzionato molto bene la cooperazione, perché c'è stato un coordinamento presso Eurojust, circolazione di informazioni, scambio di dati, di indagine. Purtroppo non sempre funziona così bene la cooperazione, questo bisogna riconoscerlo, perché lo che dobbiamo fare è proprio questo. Posso chiedere, si tratta di dare una diversa struttura a Eurojust, o si tratta di superare delle riserve nazionali di grandi paesi che cooperano meno? Bisogna superare le gelosie investigative dei singoli paesi. Se Eurojust funziona bene, se viene fatta funzionare bene, è uno strumento, come la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo funziona, perché c'è da noi italiani, tra noi italiani, la cultura del coordinamento, che per fortuna si è affermata da tempo. Non è così in tutti gli altri paesi. A livello terroristico, comunque, e di allarme, procuratore, lei può rassicurare gli italiani? Perché sa, no, io non posso rassicurare nessuno, anche perché non sono il responsabile della sicurezza. Tocca al Ministro dell'Interno esprimersi su questo tema. No, perché visto che vediamo anche da Parigi si parla di persone che potevano anche essere arrivate in Italia, c'è questa cosa sulla quale può questi dire qualcosa? Sono dati di intelligence, noi lavoriamo sui dati giudiziari, facciamo il coordinamento di tutto investigativo a livello giudiziario, che ripeto funziona a livello internazionale se c'è il concorso e la cooperazione di tutti i paesi interessati. Lei ritiene che le polemiche sono immediatamente nate anche collegandosi ai filtri di controllo sull'immigrazione per via di quei passaporti siriani trovati a Parigi identifichino un livello di controllo giudiziario che funziona per la parte italiana o che va potenziato ancora? Stiamo ancora parlando del controllo, diciamo, investigativo. Sto dicendo non di quello di identificazione e sicurezza che riguarda la polizia e le forze dell'ordine, riguardo la cooperazione di segnalazioni di soggetti di inchiesta in altri paesi rispetto a voi magistrati italiani. Questa roba funziona anche in relazione a chi viene identificato? Funziona quando ci sono le indagini in corso. Naturalmente per avviare le indagini in corso ci vuole una notizia di reato. La notizia di reato proviene spesso dai servizi di intelligence attraverso i servizi di polizia giudiziaria. Può essere fatto funzionare meglio, però il principio è che bisogna liberarsi dai condizionamenti e dalle gelosie investigative, bisogna collaborare e cooperare a tutto campo. Questo sì, però anche questo è un problema comune che abbiamo, insomma, non bisogna pensare che sia un problema solo di alcuni paesi. E non è un problema risolto, lei lo sta dicendo con grande chiarezza. È un problema che si può avviare a soluzione attraverso la collaborazione, la massima collaborazione internazionale. Procuratore, le facciamo un'ultima domanda riguardo la notizia che è uscita oggi su Repubblica, non so se ha già letto i giornali, ma Repubblica lancia con grande enfasi questa notizia: Raffaele Cutolo al 41 bis a Parma sarebbe pronto a collaborare e per svelare anche segreti è sul sequestro. È una notizia che ho letto anche io stamattina su Repubblica, adesso verificherà. Non ha altri commenti da dire? No, per ora no. La ringraziamo Franco. Prego. Roberti, grazie, procuratore nazionale antiterrorismo e antimafia. Beh, tante cose ce le ha dette, anche importanti. Io apprezzo molto che sia sincero nel dire che la valutazione sia che siamo ben lungi da una cooperazione ottimale, come devo dire. Ma d'altronde, ragazzi, che i francesi sono noti per non mettere proprio tutte le informazioni che hanno. Cioè, francesi insieme, e belgi non si parlano, e lì si sa che qualcuno ha definito addirittura il Belgistan alcune zone del Belgio, no? E non si parlano. Ma non solo, a Bari, scrive Repubblica, 2 anni fa è stato fermato, arrestato, poi rilasciato quello che è considerato oggi un 70enne l'indottrinatore di questi di Parigi. Di De Luca. Dai, ha commosto De Luca. È un po' di scherzo ogni tanto. Sì, dai. Ma certo. Abbiamo gli imam in politica e quindi noi ce l'abbiamo quelli buoni. Dai, sentiamo Marco da Modena. Buongiorno, Marco. Pronto? Dica. Buongiorno. Ascolti, mi lasci dire una cosa che non c'entra niente con quello lì. Giannino, ministro dell'economia. Sì. Giannino, ministro dell'economia. Va bene. Ma lei dice che Giannino, ministro dell'economia. Del governo dell'ISIS. Non è che le nomine vengono fatte così. Posso farlo anch'io. Voglio Milan presidente del Consiglio. No, vorrei uno strapuntino, un sottosegretariato presidente del Consiglio. Così la finanza ci lascia in pace. Sì, esatto. Venendo all'argomento di oggi, perché ieri non sono riuscito a parlare. Sì. Volevo dirvi questo, ma ho letto un grandissimo dottore che sarebbe nonché oncologo, Veronesi. Sì. Quanto è balzana questa idea? Tra gli italiani, cosa ha detto? Lo dica lui dice, dice che bisogna trattare con l'ISIS. Quanto sì. è malsana questa idea. Un'altra cosa, vi chiedo, ma secondo voi ci sono 1000 persone, hanno detto, in Italia che sono sotto controllo, ma queste 1000 persone, ma cosa aspettiamo? Non so, che imbracciano il fucile, che si mettano d'accordo, ma si può cominciare a prenderle, non so, e magari spedirle via? Cioè è una... qualche espulsione terra, terra, ma è chiaro, Marco. Allora, su questa cifra io ringrazio l'ascoltatore, perché questa cifra è stata una, secondo me, delle bucce di banana di Alfano in questi giorni. Ieri ne ha commessa una tragica, perché ho messo all'interno, può fare, ed è giusto, tutta la più libera polemica politica contro i suoi avversari politici, ma ho messo all'interno non può dire di un leader politico si augura attentati in Italia. Questo è il mio giudizio. Salvini ha detto quasi quasi non gli dispiace che non sia accaduto in Italia. È un autogol, perché ha regalato a Salvini un argomento sul suo terreno. Ma detto questo, il numero che ci segnalava l'ascoltatore fa riflettere, perché se ci sono oltre 1000, ne abbiamo espulsi 55, questo è stato un numero, la gente dice sì, ma gli altri 950? Sì, in realtà questa cifra era sul Fatto Quotidiano, poi in realtà gli inquirenti non danno un numero preciso, diciamo persone, si usa questa è parola, è uscita dalle braccia del Viminale questa cifra, sì. Persone sotto controllo, che poi vuol dire quello magari che frequenta una moschea dove c'è un altro non si capisce bene, non è così facile, esattamente, così facile. Però quella cifra secondo me ha portato tanti italiani ad avere un senso di sicurezza, non di sicurezza. Questo sì. Grazie Marco. Andrei da Reggio Emilia. Nicola da Reggio Emilia. Sì, salve, buongiorno. Ascolti, io volevo dirvi insomma due o tre cose, no? In primis, a me sembra veramente una cosa strana andare a fare un bombardamento a tappeto adesso, dopo che sono successi i fatti, dopo che sembra che tutti quanti queste menti criminali dell'ISIS siano comunque andate via da Raqqa, dalla Siria, sì. O no? Beh, non lo so, questo se hanno fatto questi interventi. L'ISIS dice che hanno colpito nel deserto, però. Io aspetto il momento in cui l'Europa dica, insomma, andiamo un po' più d'accordo con la Russia e togliamo anche le sanzioni, perché non so, a me sembra che Putin sia intenzionato veramente a combattere questa cosa. Via le sanzioni dalla Russia. No, ma Nicola, non è che la vogliamo sfumare, a parte che la qualità dell'audio, poi stiamo anche chiudendo. Comunque, via le sanzioni dalla Russia, propone Nicola. No, ma è che l'Italia si stia allineando. I russi hanno un interesse proprio neoimperiale nel Caucaso. L'Italia, per esempio, no, ne ha un altro, noi ne abbiamo uno in Libia. Adesso io capisco che agli italiani piace, agli italiani di destra poi inizia a piacere Putin, a me è il liberale, non mi piace, è il suo interesse del Caucaso, noi imperiale lì, lo capisco, il nostro, ma non è il mio, questo è il punto. Ma se mandassimo De Luca a trattare con l'ISIS, chiede un ascoltatore, e via forse sarebbe la soluzione, come dire, forse sarebbe la soluzione. Potrebbe essere, no, non lo so, e stiamo ridendo adesso, allora, non vorrei che io qualcuno, ma dai, Presidente De Luca, stiamo sorridiamo scherzando. Venga qui Presidente De Luca, sono dai, d'accordo, ai nostri microfoni. Grazie a Carmelo Lauricella, regia, insieme a Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Cari ascoltatori, continuate con Radio 24, Mix 24 con Giovanni Minoli e la sua squadra fenomenale con Secchi e Buttafuoco. A domani.